C. Ascolta e controlla. 1. Giacomo guardò dal balcone e vide la macchina del suo amico venire verso casa. 2. Stefania ottenne una borsa di studio per continuare i suoi studi negli Stati Uniti. 3. Prima della seduta, l'avvocato mise le carte sulla scrivania e spiegò la situazione in modo chiaro. 4. I miei nonni vissero per molti anni in Argentina, in una città di mare. 5. In quell'occasione fece uno strappo alla regola e mangiai un bel gelato al pistacchio. 6. Si può arrivare a piedi fino alla rocca, che sta nel punto più alto della città. 7. Noi cambiammo idea di punto in bianco quando capimmo che avevamo sbagliato tutto. 8. Quella sera il viaggiatore si fermò in osteria e bevve una bottiglia di vino rosso in un batter d'occhio. 9. Dante visse per tanti anni lontano dalla sua città natale e morì a Ravenna. 10. Come facciamo con questo tempo? Non devi preoccuparti per una cosa del genere.